in attesa che il governo Monti porti a termine il suo programma di governo. In assenza di politici locali, Capate ripropone uno scontro tra titani, puntatone o puttanone. Lo scopriremo a Capate, che questa sera si trasformerà nel ring della terza età. Buonasera a tutti, questa sera il nostro ring ospiterà lo scontro della terza età, con due vecchie baldracche che sprigionano sensualità e artrosi mischiate in un cocktail da paura. Presentiamo la prima aspirante di questa sera. Lei viene da... è il personaggio più anziano a fare la break dance, l'icona delle discoteche e delle balere di chiusura, direttamente da uomini e donne, Angela la favolosa cubista. Ci diceva il basso, bello bombante, perché la musica entra dentro il cervello e dentro il corpo, e tu dai l'energia al corpo di ballare. Frenaccio, c'è chi cazzo. Bene, ora presentiamo l'altra sfidante che ha già si negiuta di questa sera. Lei ha fatto del bene a quattro generazioni ancora in attività. Pensate, esercitava anche nella seconda guerra mondiale sotto i bombardamenti. Dite lo piacere i bombardamenti. Signore e signori, ecco a voi Felicetta. Vedi con me periodo, se io avessi combattuto con chissà cama, vedete voi? Sì, contro chi? Io voglio ballare in mezzo ai giovani, giovani come il Papa! Voglio che non beviano alcol! Dicevo, metti questa musica! Progressiva, trasgressiva! E che... DJ-io! E che rezza c'è Roma? Se pigli all'ascolo, magari gli state c'è l'unguello! È spambata, la come i cinesi in l'autosciata! Chiamatemi il DJ, io non lo ammazza, chi DJ io? Mettimi la musica che devo uccidere a questa crapa! Buone, buone, buone, buone. Voi avete in comune la stessa età. E la domanda nasce spontanea, ma perché un biglietto ha ricettato? Mio marito fortunatamente è morto e ora io mi voglio sciare DJ io, sciare con me io! DJ io! E ti mantieni stasera, oppure mi piedi pendere la pressione. Ma suo marito ti è morto. Che peccato, ma mi sa che forse è un momento tuo per cangiare. DJ io! DJ io! Buone. Magari ti comprassi un 4x4 a Rucambo Santo. Comunque peggio che no, potremmo cominciare, ma fatto che esce la fatica, mi faccio finisci il lavoro, cacciate sta cosa. Sto cavuzzo brutto e riperstante, ma soprattutto per il vertito, che non saggio pagare. Oh, ma che tanto capito? DJ io, voglio la piva! La piva, io prendo 15.000 serata! La DJ, musica, DJ! Usa pio, sempre un stesso copione. Peggio Marconi Toni. Viva la fantasia proprio. Comunque mi ero preventivato. Faccio entrare per attenzione due vecchie baldracche Rocco Siffredi. DJ io! Che bello microfono, DJ io! Buonasera a tutti. Veramente a tagnare si diceva comunque. Buonasera, ciao caro, cosa posso fare per te? A mia niente, comba. Che un signo da Rich. Vida se ti pigliava se ti attagnassi tua vecchia. Un mischiamer da cioccolato. Innanzitutto, ciao cara Felisti, da quanto tempo, come stai? Ciao carissimo Rocco, ti ricordi quando abbiamo fatto quel film sotto il ponte di baracca? Certo, bei tempi. Oppure Filippo il Calippo. Mamma mia. Belle tempi. Quando c'è luce, ma ci siamo prevestiti una volta. Ma guarda. Ma fammi vedere un attimo questa qui. Ma questa è la nonna di Lady Gaga. È una caga di cielo! A pila, ti aiuta! A pila di cielo! Ma quale pila? Ora mi abbasso i pantaloni e vi faccio vedere qual è il vostro compenso. Eccolo. E chi se nu compenso? Comba! Guarda quanta giovitudine! Minchia, come sei ti ha ridotto male, chi ci ha fatto questa. Ce la fa questa benzetta e bavate mamma come muscio di cieli e muscio di dove è il microfono comba ho pila ho la pila ma ti fanno un brodino con l'ossi che te buon di cieli portavolo finito progressivo ed espressivo aia Rocco Siffre, ma va fangolo! Aia, arrivederci, casomai non è per questa settimana prossima e per quando moriamo, ciao ciao! Vincenia! Il McEndage l'aveva fatto.